Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. A un momento iniziale anche di paura, di angoscia, mi pare che vada sostituendosi un sentimento di assuefazione. Per un verso è positivo, nel senso che si trova, come dire, un punto di stabilità. Per un altro verso può essere negativo. Può subentrare l'abitudine, la sfiducia su quando arriveranno i risultati. Bisogna stringere i denti ed avere fiducia. La battaglia non si vincerà brevissimo, ma sarà vinta. E sarà vinta prima se stringeremo i denti tutti quanti e faremo i sacrifici che ci vengono richiesti. Dico la verità, cara ascoltatrice e cari ascoltatori, vi rivelo un piccolo segreto. Avevo messo per incipit l'appello del Presidente della Repubblica Mattarella, che poi sentiremo ampiamente nel corso della puntata, e poi invece mi è sfuggito comunque il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che comunque a sua volta ha lanciato un appello all'unità, a fare uno sforzo, insomma, come dico io, a mantenere il senso della meta, e quindi di riuscire, insomma, a superare questo momento di difficoltà, i sacrifici, in modo che poi tutti possano salvare tutti, no? Sappiamo che siamo come delle tessere di domino in questo lungo periodo cupo, e che nessuno si salva da solo, come oggi ha detto anche il Papa. Quindi sentiremo anche Mattarella, sentiremo il Papa che ha dato la sua benedizione urbi e torbi in una piazza San Pietro incredibilmente vuota, sono immagini che non abbiamo mai visto. E poi naturalmente ci collegheremo con la Gran Bretagna, fra le molte altre cose, perché sapete che oltre appunto a esserci record di contagi e anche di morti, purtroppo lo stesso primo ministro Boris Johnson, che fino a qualche giorno fa negava questa emergenza, è risultato positivo, anche se sembra che stia piuttosto bene. Parleremo anche degli infermieri, una categoria che è in primissima linea ovviamente a fianco dei medici, donne e uomini, e che anche loro combattono ogni giorno, ci salvano la vita, cercano di curare le persone che stanno male, e con orari veramente un impegno incredibili. E quindi parleremo naturalmente anche di loro. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, come sempre lì per voi comodamente giorno e notte, oppure SMS WhatsApp al 349-238-6666, che è il numero per SMS e WhatsApp. Vi ricordo durante il giorno il mio Twitter per alcune anticipazioni è Roby con la Y, lineetta bassa, Giordano, oppure c'è quello durante la diretta, il Twitter di Effetto Notte. Allora direi, prima di parlare più in specifico, approfondendo i vari argomenti, come sempre iniziamo dalla sintesi della giornata. Il messaggio di Mattarella alla nazione: l'Europa intervenga prima che sia troppo tardi, viviamo una pagina triste della storia, l'Italia intanto supera la Cina per numero di contagi. Il coronavirus nel mondo, in Spagna e Francia nuove misure di contrasto, Parigi decide altri 15 giorni di confinamento generalizzato, in Gran Bretagna numero record di decessi in un giorno e anche il primo ministro Johnson è positivo al Covid-19, oltre 25.000 i morti nel mondo, e l'OMS lancia un allarme, in Africa l'evoluzione è drammatica. La benedizione del Papa Urbi et Orbi, Papa Francesco si rivolge al mondo in una San Pietro deserta e concede indulgenza plenaria. L'Europa e le misure economiche, l'Olanda si divide sui coronabond, il governo Rutte resta contrario, ma la banca centrale dice ora serve la solidarietà. L'allarme del Copasir in atto contro l'Unione Europea e l'Italia, una campagna di disinformazione. Partiamo quindi dal messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella agli italiani. Sono indispensabili, ha detto Mattarella, ulteriori iniziative comuni, superando vecchi schemi, perché la solidarietà non è soltanto richiesta dai valori dell'Unione, ma è anche nel comune interesse. Questo è il cuore appunto del suo videomessaggio alla Nazione. Il Capo dello Stato ha detto che mentre provvediamo ad applicare con tempestività ed efficacia gli strumenti contro le difficoltà economiche, dobbiamo iniziare a pensare al dopo emergenza. Nella ricostruzione il nostro popolo, ha proseguito Mattarella, ha sempre saputo esprimere il meglio di sé, e poi ha anche auspicato il Presidente che ci sia un impegno comune fra tutti, soggetti politici, di maggioranza e di opposizione, soggetti sociali, governi dei territori, unità e coesione sociale, ha detto, sono indispensabili. Sentiamo questi due passaggi. Stiamo vivendo una pagina triste della nostra storia. Abbiamo visto immagini che sarà impossibile dimenticare. Alcuni territori, e in particolare la generazione più anziana, stanno pagando un prezzo altissimo. Ho parlato in questi giorni con tanti amministratori e ho espresso loro la vicinanza e la solidarietà di tutti gli italiani. Il senso di responsabilità dei cittadini è la risorsa più importante su cui può contare uno Stato democratico in momenti come quello che stiamo vivendo. La risposta collettiva che il popolo italiano sta dando all'emergenza è oggetto di ammirazione anche all'estero, come ho potuto constatare nei tanti colloqui telefonici con capi di Stato stranieri. E aggiungo anche questo piccolo aneddoto, perché spopola sui social un fuori onda della registrazione di questo messaggio di Mattarella agli italiani. Nella concitazione della registrazione in orario da telegiornali è sfuggito ai tecnici un passaggio in cui Sergio Mattarella prima si interrompe per un colpo di tosse, poi deve ricominciare la registrazione, poi un suo consigliere gli fa notare che ha i capelli un po' in disordine. Pronta la risposta di Mattarella, che gli ricorda come le regole valgano anche per il Quirinale, dice: per me niente barbiere, quindi come per tutti gli italiani. E per quanto riguarda i dati del contagio in Italia, sono 9.134 i morti nel nostro paese a causa del coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 969, e l'incremento più alto dall'inizio dell'emergenza. I decessi da coronavirus in Italia sono stati questa settimana 730 in media al giorno, per un totale salito oltre 9.000, e abbiamo superato la Cina per numero di contagi totali, e anche i malati attuali continuano a salire a 66.400. Tuttavia gli aumenti sono stabili da alcuni giorni e in termini percentuali si sono dimezzati dal 15 al 7%. A spiegare la situazione è stato all'ora di pranzo il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. I segnali che abbiamo sono positivi, vuol dire che le misure adottate stanno facendo i loro effetti, però dobbiamo essere altrettanto chiari: non abbiamo raggiunto il picco, non lo abbiamo superato. Non siamo in fase calante, siamo in fase di rallentamento della crescita. Brusaferro ha spiegato che le attuali misure restrittive dovranno probabilmente essere confermate per alcune settimane, e comunque serviranno ancora misure di distanziamento sociale e di protezione delle categorie a rischio finché non ci sarà un vaccino. Intanto il commissario Domenico Arcuri, in Protezione Civile, ha illustrato lo sforzo per affrontare l'emergenza. Le terapie intensive in Italia, che erano 5.343, sono oggi 8.984. Siamo passati da una media di 307.068 mascherine distribuite al giorno ad una media di 2,8 milioni. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Quindi, un po' per ricapitolare i numeri principali, sono i malati in Italia 66.414, le vittime 9.134, i guariti 10.950, e continuano a crescere i decessi anche in Lombardia, ma sono in leggero calo i nuovi contagiati ricoverati. Cambia la politica sui tamponi, ora anche ai monosintomatici. È in lieve calo il numero dei nuovi contagi in Lombardia, 37.298 i positivi, con una crescita di 2.409. In flessione rispetto al giorno precedente, crescono meno anche i ricoverati. Ora 11.137, 200 in più, con un incremento dimezzato. Ancora in crescita i decessi, che portano a 5.402 il totale delle vittime, ma calano i ricoveri e i nuovi accessi, sottolinea l'assessore al welfare Giulio Gallera. C'è un dato che è il dato confortante: in tutti i pronto soccorso si registra una riduzione. La provincia di Bergamo resta la più colpita, seguita da Brescia, mentre calano i nuovi contagi a Milano. Un quadro anticipato in giornata dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Sicuramente non sta crescendo la linea dei contagi, ma io penso che stia per iniziare la discesa. L'aumento precedente, ha spiegato Fontana, era dovuto ai maggiori tamponi processati, tamponi sui quali ora è cambiata la strategia. Vengono eseguiti anche a chi presenta un solo sintomo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con l'emergenza coronavirus diventa vitale il servizio a domicilio per gli anziani soli, per le persone con disabilità. Per questo l'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, e diverse associazioni hanno siglato un protocollo per garantire il servizio su tutto il territorio. E poi, come vi dicevo all'inizio, parleremo anche della categoria degli infermieri. A Milano, intanto, nella zona della Vecchia Fiera, vanno avanti i lavori di costruzione della struttura d'emergenza, e di questo poi parleremo nel corso della puntata. Parliamo anche di questa cosa importante che riguarda i congedi parentali e norme straordinarie legate all'emergenza sanitaria. Andrea Viali ci spiega. Il congedo parentale straordinario previsto dalle norme sull'emergenza coronavirus può essere chiesto anche se uno dei due genitori lavora da casa in modalità smart working. A precisarlo è una circolare dell'INPS. Introdotto dopo la chiusura delle scuole, il congedo ha una durata di 15 giorni, anche frazionabili, e indennizzati al 50% della retribuzione. Può essere chiesto dai lavoratori dipendenti del settore privato e di quello pubblico e dagli autonomi iscritti all'INPS per i figli fino a 12 anni, a patto che l'altro genitore non sia disoccupato né beneficiario di un sostegno al reddito. Sul fronte dell'istruzione, intanto, la ministra Azzolina ha fatto sapere che la chiusura delle scuole verrà sicuramente prorogata oltre il 3 aprile ed ha smentito le voci di un prolungamento della didattica a distanza fino a luglio. Se ci sarà necessità di recuperare, ha spiegato, lo si farà in un secondo momento. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo alla politica. Il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà ha annunciato che il primo ministro e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà nella prossima settimana i leader politici delle forze di opposizione, quindi Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, per rapportarsi direttamente sulle misure discusse in queste ore al tavolo tecnico con i capigruppo di opposizione. Salvini intanto torna a parlare di una futura possibile uscita dall'Unione. Il premier Giuseppe Conte incontrerà il leader dell'opposizione la prossima settimana, ma intanto Matteo Salvini minaccia ancora una volta l'uscita dall'Unione Europea. Prende il via alla cabina di regia tra governo e opposizione col ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà e quello dell'economia Roberto Gualtieri. Per mettere a punto il decreto aprile, Gualtieri rivela che sarà più di 25 miliardi. Il governo intende includere tutti gli ulteriori necessari interventi di emergenza e sostegno all'economia. Verranno poi rafforzati 600 euro dati ai lavoratori autonomi e per la CIG ci saranno tutte le risorse necessarie. Il pagamento delle pensioni, precisa poi Gualtieri, sta avvenendo in modo regolare. Ma dall'opposizione Matteo Salvini attacca l'Europa dopo il no ai corona bond. Altro che Unione, è un covo di serpi e sciacalli. Prima sconfiggiamo il virus, poi ripensiamo all'Europa e se serve salutiamo. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso i dati del coronavirus nel mondo: sono oltre 25.000 le persone morte a causa del coronavirus, la maggior parte in Europa. Secondo l'ultimo bilancio della Johns Hopkins University, i casi globali di Covid-19 sono 553.244 in 176 paesi e regioni. Tra le vittime, purtroppo, anche una sedicenne francese. Nuovo boom di contagi e morte nel Regno Unito, con 181 decessi in 24 ore. Il primo ministro Boris Johnson è risultato positivo in autoisolamento, come il ministro della Sanità. E poi in Spagna 769 morti in 24 ore, la Spagna particolarmente piegata dal coronavirus. E arriva l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice in Africa c'è un'evoluzione drammatica con un aumento geografico dei paesi e dei contagiati, con 39 paesi e con circa 300 casi al giorno. Per quanto riguarda il vaccino contro il Covid-19, sempre l'OMS dice che è ancora lontano, ci vorranno almeno 12-18 mesi. La Camera dei rappresentanti, siamo negli Stati Uniti, al Congresso americano ha approvato il maxi pacchetto di misure da 2.000 miliardi di dollari, il cui obiettivo è quello di sostenere l'economia americana, proteggendo famiglie e imprese dalle conseguenze dell'epidemia del coronavirus. Ora il provvedimento arriva sulla scrivania dello Studio Ovale per la firma del presidente Trump. E parliamo dei corona bond, con continue forti divisioni nella trattativa tra il sud e il nord dell'Unione Europea su quali strumenti darsi per fronteggiare la crisi. Ne abbiamo parlato anche ieri che c'era il vertice europeo. Siamo contrari ai corona bond, molti altri paesi lo sono perché porterebbe l'eurozona in un altro territorio, sarebbe come attraversare il Rubicone, ha detto oggi il primo ministro olandese Rutte. Poco dopo però il governatore della banca centrale olandese Klaas Knot prende le distanze dal suo governo e dice: questo è un test per l'eurozona, quando vedi cosa accade col virus in paesi come Italia e Spagna credo che la richiesta di solidarietà sia estremamente logica. E c'è un allarme del COPASIR, del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica in Italia, che dice: entità statuali esterne in questa fase di emergenza coronavirus stanno facendo disinformazione online con una campagna infodemica che vede per quanto riguarda l'Unione Europea, in particolare l'Italia, obiettivi non secondari e vedono il proprio target. Lo dice il presidente del COPASIR Raffaele Volpi, informando che il comitato ha investito l'onorevole Enrico Borghi del PD di una prima ricognizione sull'argomento e Borghi ha detto: la diffusione di fake news riconducibili a queste entità statuali colpiscono in particolare appunto l'Unione Europea e l'Italia. Sono tantissime le fake news, e dice, da quelle complottistiche ad altre miracolistiche su soluzioni al virus. L'effetto è quello di indebolire, dice, la tenuta dei governi. Ora, conclude, prenderemo contatti con le autorità preposte per fare luce. E nel frattempo l'OMS ha creato un'applicazione per combattere la diffusione di notizie false sul coronavirus, lo ha annunciato il direttore dell'OMS. Si chiama questa applicazione My Health, la mia salute, e può essere scaricato sui sistemi iOS e Android a partire da lunedì. Fornirà notifiche e informazioni sul Covid-19. Comunicherà a chi lo usa se si trova in una zona ad alto rischio, se qualcuno nell'area ha dichiarato di avere contratto il virus, eccetera. Sarà disponibile in inglese, francese, cinese, spagnolo, arabo e russo, e noi che siamo il paese più colpito non c'è l'italiano, almeno per il momento. E passiamo alla preghiera del Papa Urbi et Orbi nella piazza vuota di San Pietro. Ha detto il Papa: Dio non lasciarci nella tempesta, poi ha concesso l'indulgenza plenaria. Ci siamo tutti come quei discepoli che parlano a una sola voce e nell'angoscia dicono: siamo perduti. Così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. Poi sentiremo nel corso della puntata un altro passaggio importante del Papa. Intanto vedo che il giorno di Pasqua nel Duomo di Milano canterà Andrea Bocelli. Cambiamo argomento, parliamo per una volta di rifiuti zero entro il 2030. È l'obiettivo che si è data prima in Europa la città slovena di Lubiana. Obiettivo ambizioso, ma alla portata di una capitale che in pochi anni è arrivata in cima alla classifica delle città riciclone dell'Unione Europea. Fulcro del sistema è la società pubblica Voca Snaga, di cui è portavoce Nina Sefcovic. A Ljubljana vivono circa 300.000 abitanti, mentre la popolazione di tutta la Slovenia è di circa 2 milioni. Siamo ovviamente molto più piccoli di altre capitali e forse è anche per questo che siamo riusciti a ottenere questi risultati rapidamente. 12 anni fa Ljubljana riciclava solo il 30% della spazzatura ed eravamo molto indietro rispetto all'Europa. Portavamo quasi tutti i rifiuti nelle discariche. Ora la quota di raccolta differenziata è del 69%. Siamo in cima alla classifica delle capitali europee per raccolta differenziata e in discarica va ormai meno del 5%. Come è iniziato il vostro percorso? All'inizio, nel 2002, abbiamo realizzato delle isole ecologiche per la raccolta di vetro, carta e plastica. Dal 2006 poi abbiamo cominciato con la raccolta porta a porta dell'organico. Quindi nel 2013 siamo arrivati al punto di svolta distribuendo a tutti i bidoni per la raccolta differenziata. Quindi abbiamo ridotto la frequenza di raccolta così che i cittadini fossero ancor più consapevoli dei propri gesti e così sono arrivati i buoni risultati. E a questo tema sarà dedicato il reportage curato da Laura Bettini, vi ricordo, in onda sabato, cioè domani 28 marzo alle 8:15. Monasteri Santa Chiara. Ergo vare scuro scuro. Ma perché, perché ho. La canzone napoletana perde Mirna Doris, stroncata da un cancro. Doris, 79 anni, l'anagrafe annunziata a Chiarelli, avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 28 settembre. Profondo cordoglio della città di Napoli è stato espresso dal sindaco Luigi De Magistris, che l'ha ricordata definendola voce storica della canzone napoletana e grande protagonista della musica di Napoli e del paese. Doris è stata tra le protagoniste assolute della musica napoletana e italiana. La musica napoletana, lo sapete, è antichissima e penso che tuttora esprima comunque il calore del popolo italiano, degli italiani, soprattutto poi in questo momento che dobbiamo essere tutti, nostro malgrado, un po' freddini. Bene, qui si chiude la sintesi della giornata, ci sentiamo tra pochi istanti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti sempre ricchissimi di informazioni, di aggiornamenti in diretta, di sintesi della giornata, dei vostri commenti sul 349-238-66, il numero per SMS e WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Note, per poi cominciare tra pochissimo con gli approfondimenti insieme agli ospiti. E ringrazio tutti quelli che aspettano questo momento con ansia, un'ansia nel senso che questo dovrebbe essere un programma anti-ansia, anti-stress, antivirus, nel senso che più ascoltate informazione certificata qua che vi racconto a Effetto Notte e più cercate di evitare il virus. Ringrazio quindi Maurizio, Giordana, Silvia, tutti quelli che aspettano questo momento, e in particolare questo ascoltatore che dice: buonasera Roberta, come sempre presenti ad ascoltarti, mia moglie ormai sa che alle 21 pianto tutto e accendo la radio. E fai benissimo, spero che la moglie non si arrabbi, anzi spero che possa ascoltare anche lei, perché cominciamo con una cosa molto importante, nel senso che da che siamo piombati purtroppo in questo tunnel oscuro dal quale cerchiamo con fatica di uscire, sappiamo bene, lo ripetiamo sempre, quali sono i nostri angeli custodi, coloro che agiscono instancabilmente da settimane in prima linea, rischiando in prima persona per cercare di salvare la vita a chi si ammala. Sono le donne e gli uomini, i medici e infermieri, che costituiscono nel loro complesso il personale sanitario. Anche il Papa oggi li ha citati nella sua benedizione Urbi et Orbi. Sentiamo questo passaggio del Papa. Le nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni, solitamente dimenticate, che non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste, nelle grandi passerelle dell'ultimo show, ma senza dubbio stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia. Medici, infermieri e infermieri, addetti dei supermercati, addetti alla pulizia, badanti, trasportatori, forze dell'ordine, volontari, sacerdoti, religiosi e tanti, ma tanti altri che hanno compreso che nessuno si salva da solo. Già, l'ha detto anche il Papa. E a proposito, appunto, ritornando sui medici infermieri, anche loro purtroppo si ammalano. Secondo i dati aggiornati ad oggi, resi noti dall'Istituto Superiore di Sanità, salgono a 6.414 gli operatori sanitari contagiati dal nuovo coronavirus in Italia. L'età media è di 49 anni. E per quanto riguarda i medici, donne e uomini deceduti, salgono a 51 dal nord al sud. Questa settimana, poi, vi ricordate, è stato ospite qui a Effetto Notte anche un avvocato che, su richiesta di una famiglia di un medico morto, ha chiesto un risarcimento, e lui intende chiedere appunto degli indennizi per queste famiglie. Vi dicevo all'inizio, medici e infermieri, magnifici eroi, ovviamente sono anche gli infermieri, donne e uomini, che tra l'altro trovo facciano sempre un lavoro davvero encomiabile, molto duro, già nelle situazioni normali, figuriamoci in questo momento. Allora voglio subito coinvolgere Barbara Mangiacavalli, che è presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche. Buonasera, dottoressa Mangiacavalli. Buonasera a tutti voi e gli ascoltatori. Mi dice che cosa pensa del lavoro in questo momento, in questi frangenti, dei suoi colleghi, delle infermiere e degli infermieri? Gli infermieri in questa situazione hanno dato e stanno dando tutto, anche la vita. Abbiamo perso anche noi molti colleghi nelle situazioni più svariate. Abbiamo moltissimi colleghi contagiati a casa. I numeri che sono stati dati oggi e che vengono aggiornati quotidianamente sono numeri che rispecchiano la totalità degli operatori sanitari. Proporzionandoli agli organici presenti all'interno del sistema sanitario pubblico e privato, sono numeri che ci fanno dire che il 60-65% di quei contagiati sono infermieri. Questo lo sappiamo, lo vediamo tutti i giorni e questo ci preoccupa ogni giorno di più. Questa situazione è partita con un rallentamento ed un ritardo nella fornitura dei dispositivi di protezione individuale, sia, come dire, qualitativamente validi sia quantitativamente appropriati. Forse oggi, a guardare almeno le notizie, sembra si inizi a ragionare di un flusso continuo di forniture. Fino ad oggi però abbiamo sempre lavorato, tutti gli operatori sanitari, infermieri compresi, con un orizzonte temporale ristrettissimo. L'orizzonte temporale che abbiamo è il turno successivo o le 24 ore successive. Quindi all'ansia, alle emozioni quali ansia e paura, perché sono emozioni umane e ci sono anche tra noi infermieri, certo, si aggiunge anche l'ansia di rischiare di iniziare un turno senza i dispositivi di protezione, che sono l'unica arma che questi eroi, anche se a me non piace definire eroi, perché noi siamo professionisti, lo eravamo ieri, lo siamo oggi e lo saremo domani, però sono l'unica arma che noi abbiamo per entrare nelle camere dei pazienti affetti da Covid, per prestare assistenza, per stare in turno per tutte le ore, per tutto il tempo che necessita. Insomma, non ho bisogno di ripetere, certo, quello che abbiamo già visto su certi dispositivi che sono arrivati, insomma. E comunque bisogna dire che per fare il vostro lavoro, oltre che una grande professionalità, ci vuole anche un grande coraggio, una grande pazienza e una grandissima umanità. Senta, dottoressa Mangiacavalli, tra l'altro vedevo che è scaduto circa un'ora e mezza fa, alle 20, il bando lanciato dalla Protezione Civile. Nei giorni scorsi era stato lanciato per richiamare medici volontari un po' da tutte le parti d'Italia verso le zone più colpite, come per esempio la Lombardia o l'Emilia-Romagna, no? Adesso scadeva alle 20 invece il bando per reclutare una task force di 500 volontari infermieri, sempre per le zone più colpite dall'emergenza coronavirus. Per quanto riguarda... non è scaduto. Sì. Scade domani sera alle 20. Ah, quindi fino domani alle 20. Si è aperto stamattina e scade domani, cioè ieri sera tardi, si chiude domani sera alle 20. Ah, bene, ancora meglio, perché c'è più spazio. Dunque, per quanto riguarda i medici, avevano addirittura aderito a questa richiesta molti di più di quelli che ci si aspettava. Lei ha minima idea adesso di quanti stanno aderendo a questo bando? Ma come è successo per i medici, noi le notizie fino a quando il bando è aperto le abbiamo da fonti ufficiali, che sono il Dipartimento della Protezione Civile piuttosto che il Ministro per gli Affari Regionali. Proprio lui stasera ha parlato di circa 3.500 domande pervenute. È un dato che mi fa molto piacere, perché tramite i nostri ordini provinciali abbiamo proprio chiesto agli infermieri di rispondere e di aderire. È un bando che è aperto a chi è dipendente, a chi non lo è, a chi è... lavora con altre tipologie di contratto, per cui insomma dà ampia possibilità a tutti di partecipare. È un bando che non raccoglierà molto tra infermieri non occupati, perché di fatto non ce ne sono gli infermieri non occupati in Italia. Questo sui numeri, sulle carenze di organico è un messaggio che la federazione ha lanciato già da molti mesi, insomma. Però raccoglie sicuramente i nostri colleghi professionisti disponibili a prestare assistenza nelle zone più in crisi e più sotto pressione. E questo è un segnale della flessibilità, della abnegazione, della disponibilità, certo, dei nostri colleghi. Senta, vedevo che in base a questo bando ai dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, leggo, di strutture private, anche non accreditate o liberi professionisti, verranno corrisposti 200 euro al giorno, oltre allo stipendio o al guadagno già percepito. La partecipazione all'unità infermieristica per il Covid-19 prevede inoltre il rimborso delle spese di viaggio. Mi dice, dottoressa Mangiacavalli, in media una infermiera o un infermiere quanto prende di stipendio al mese? Questa è la nota dolente di tutta questa vicenda. Lo stipendio medio di un infermiere italiano oscilla tra i 1.400 e i 1.600 euro al mese, lordi comprensivi di tutte le diverse indennità. La differenza è legata alla tipologia di reparto in cui si viene inseriti, quindi se ci sono presenti particolari indennità, o alla tipologia di turno. Comunque quella è la media. Credo uno stipendio che io ho sempre ritenuto molto basso per un lavoro così duro, così pesante, così prezioso. Non lo dica noi, i nostri colleghi. Infatti, guardi, io una cosa, tra le tante cose che mi auguro di questa vicenda, me ne auguro due su tutte. Uno, che i morti che noi abbiamo avuto in Italia tra i colleghi, tra i cittadini, servano a qualcosa, perché ci manca solo che il nostro paese non impari nulla da questa vicenda. Il nostro sistema sanitario deve imparare, deve fare una riflessione seria e strutturata su quanto è accaduto e quanto sta accadendo. Questo è il primo augurio che io mi faccio come cittadina e come infermiera. Il secondo augurio, forse un po' più venale, ma non lo è che questa vicenda deve rimettere al centro della riflessione tutto il sistema sanitario, i suoi professionisti, perché il sistema sanitario cammina sulle gambe dei professionisti, sono il capitale del nostro sistema sanitario. Gli infermieri sono la forza principale di questo capitale, almeno in termini numerici. Tutti ci stanno dicendo: non ci dimenticheremo di voi. Io auspico che sia così, perché noi saremo dei, come dire, saremo le persone che porteranno la memoria all'istituzione di quanto è accaduto e di quanto non deve più avvenire, ma anche di una veramente una riflessione strutturata sul ruolo, la potenzialità e le funzioni dell'infermiere nel nostro paese, e quindi anche una valorizzazione non solo professionale ma anche economica. Mi unisco fermamente ai suoi auspici, dottoressa Barbara Mangiacavalli, e insomma un abbraccio grandissimo a tutte le infermiere e gli infermieri italiani. Grazie. Dottoressa Mangiacavalli. Grazie a voi. E buon lavoro. Grazie. Ricordo, Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche. Allora, ci fermiamo come sempre a questo punto per una piccola pausa di riflessione, di respiro. Voi continuate con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Ci sentiamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, prima di tutto vi ringrazio per essere dall'altra parte a farmi compagnia, a farci compagnia. Roberta Giordano sempre con voi in questo appuntamento che spero per voi sia un punto di riferimento a fine giornata per avere un quadro delle cose più importanti da sapere dall'Italia e dall'estero, e poi gli approfondimenti con gli ospiti, gli aggiornamenti che man mano arrivano in diretta. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666 che è il numero per SMS e WhatsApp. Abbiamo appena parlato anche della categoria degli infermieri, che insieme ai medici sono diciamo le colonne portanti di questo paese, soprattutto in questo momento. Adesso, sempre a proposito della sanità in questi frangenti, allora torno sulla situazione della Lombardia, che ormai, come sapete, si trova nella situazione più difficile, più drammatica. Poi naturalmente c'è l'Emilia Romagna, c'è il Piemonte, il Veneto, parte delle Marche, via via, insomma, con la preoccupazione anche per il sud. L'avete sentito all'inizio anche il presidente Vincenzo De Luca della Campania. In termini di contagi e morti, comunque, appunto, la situazione della Lombardia è molto molto difficile, con le strutture sanitarie che, per quanto d'eccellenza, sono drammaticamente oberate dall'inizio di questa epidemia. Per questo, tra le iniziative per creare soprattutto degli spazi per ulteriori terapie intensive, c'è quella, tra queste iniziative, di realizzare alla Fiera di Milano, alla vecchia Fiera di Milano, una struttura ospedaliera. Una realizzazione che doveva essere guidata da Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, che però, suo malgrado, si è ritrovato positivo al coronavirus, in questo momento è ricoverato. Però, come ci assicura la nostra Sara Monaci del Sole 24 Ore, che oggi è stata sul posto, i lavori vanno avanti, vero Sara? Sì, ciao Sara. Ciao, buonasera. Stanno andando avanti e si sta trasformando sempre di più in una vera e propria struttura ospedaliera. Infatti è abbastanza impressionante vedere cosa sta sorgendo. Si parlava inizialmente di una sorta di ospedale da campo da 400 posti. In realtà sta diventando un'altra cosa, cioè un hub per la terapia intensiva da 250 posti, e tra qualche giorno inizieranno ad arrivare i primi pazienti con i primi moduli, vengono chiamate così queste vere e proprie stanze in cui ci sono posti letto con i respiratori e con i servizi adiacenti. I dottori avranno la loro red line per poter arrivare nel luogo di lavoro. Mi sentite? Ti sentiamo, sì, Sara, sì. Ero attenta. Nel luogo di lavoro, potendo poi spogliarsi direttamente in spogliatoi che non hanno contatto diretto con le stanze, questo al 15° piano. Poi nel piano zero ci saranno altri 15 moduli, ogni modulo calcolate che potrebbe ospitare almeno 7-8 persone. I respiratori sono già stati attaccati, sono tutti arrivati dalla Cina. E si tratta in realtà di una anche rapida sinergia pubblico-privato dal punto di vista sia della gestione che delle risorse, perché da una parte c'è Infrastrutture Lombarde, che è la società della regione Lombardia che si è occupata del progetto ingegneristico. Calcolate che è un progetto ingegneristico cambiato ogni 2-3 giorni, quindi in una settimana ne hanno già fatti diversi proprio per migliorare e utilizzare appieno gli spazi da 25.000 metri quadrati. Quindi si tratta di questa grande opera in cui le risorse ci sono, ma i costi lievitano di giorno in giorno, tanto che ancora oggi non è ancora possibile capire quanto costerà. Ci sono fondi diretti gestiti dalla Fondazione Fiera, che è la proprietaria della struttura struttura e fondi indiretti, quelli che sono arrivati alla regione Lombardia, quelli di cui abbiamo parlato, si sa bene per esempio delle donazioni di Silvio Berlusconi, della famiglia Caprotti, quelli sono andati in regione e loro compreranno poi le altre attrezzature, ma qui si tratta proprio di tirare su le mura di un ospedale insieme agli strumenti, ma insieme anche ai letti, ai respiratori, ai camici, trovare il personale, manca tutto e tutto deve essere fatto nell'arco di pochi giorni, quindi effettivamente una corsa contro il tempo, insomma, Sara, sì, anche qua. Una corsa contro il tempo che loro definiscono, i vertici della fondazione, una vera e propria diga. Ecco, il nome è questo ufficiosamente, nel senso che è un hub che verrà utilizzato come aiuto per gli ospedali, ora lombardi e milanesi, speriamo il meno possibile, ma eventualmente servirà questo, e poi per il resto del paese, perché se l'epidemia chiaramente dovesse poi salire anche nel numero dei contagi al sud, poi potrebbe essere utilizzata. E la struttura sarà lì sì, per almeno 6 mesi, questo è il programma che hanno, poi vedremo, perché questi ex padiglioni, in realtà il progetto originario di qualche tempo fa era quello di attrezzarli per farla diventare la nuova sede della RAI regionale, progetto che evidentemente dovrà aspettare ancora un po'. Già, ci sono altre priorità, altre emergenze. Scusa, sì. Sara, quindi dicevi della tempistica? Per chiudere. Allora, la tempistica si è allungata poi di 2 o 3 giorni, come dicevi tu, Bertolaso si trova suo malgrado ricoverato a San Raffaele, tuttavia appunto ho potuto vedere che manda messaggi anche dall'ospedale, quindi in realtà è attivo, ovviamente non starà benissimo, ma non è nemmeno un paziente grave, in questo momento sta andando comunque a migliorare, evidentemente sta ancora lavorando, manda degli ordini e coordina un po'. Come tempistica quindi si dovrebbe vedere i primi pazienti i primi di aprile, quindi la settimana Bene, prossima, insomma, a giorni, quindi speriamo. Sì, grazie, esatto. Grazie Sara Monaci, buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. E buona serata, ciao. E a proposito di aggiornamenti in diretta, vedo in questi istanti un dispaccio di agenzia che dice: Donald Trump, presidente americano, firma, tramutandolo in legge, il pacchetto da 2.000 miliardi di dollari di aiuti all'economia americana. Gli stimoli concederanno l'aiuto di cui c'è urgentemente bisogno, dice Trump, quindi magari dopo cerchiamo di collegarci con gli Stati Uniti. Nel frattempo però restiamo in Italia, esattamente a Codogno, la cittadina della zona rossa dell'Lodigiano, dove tutto praticamente in Italia, dove tutto è partito, vi ricordate lo scorso, una notte tra il 20 febbraio e il 21 febbraio è stato accertato il primo caso di coronavirus in Italia, quello del paziente 1, il 38enne che per fortuna è tornato a casa dopo circa un mese nei giorni scorsi, che aveva un mese trascorso in ospedale, e proprio quella sera era stato qui ospite effetto notte immediatamente il sindaco di Codogno Francesco Passerini, che quindi coinvolgo nuovamente qui effetto notte. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a voi. È passato più di un mese da allora, no? Passerini. Sì, è passato quasi 5 settimane che veramente sembra un'altra epoca e che siano passati degli anni. Davvero. Voi siete quelli che avete sperimentato per primi la paura, il dramma e poi anche le ristrettezze, le misure restrittive, no? Fino a un certo punto, nei giorni scorsi, sembrava che man mano arrivaste a quasi a quota zero di contagi. Invece è stato un piccolo rialzo ultimamente, Passerini? Sì, la giornata di 2 giorni fa abbiamo avuto appunto questa indicazione, dopo 2 giorni che registravamo appunto zero nuovi contagi, abbiamo avuto questo +6 nella giornata di ieri, che sicuramente ha fatto spaventare un po' tutti, ha fatto tornare quasi in situazioni, non dico che pensavamo di non vivere più, però sicuramente stavamo vivendo un trend che sicuramente ci dava degli esiti diversi, cosa che, tra parentesi, anche perché è giusto anche dare i dati, gli ultimi oggi si è avuto un caso di nuova positività. Speriamo domani di ritornare in quello che era un trend che era iniziato a inizio settimana, fine settimana scorsa, inizio settimana, e appunto ha avuto questo brusco stop, speriamo che sia dovuto, sia un caso episodico, eccezionale, dovuto magari insomma ad altre situazioni. Mm. Sì. Sindaco Passerini, tra l'altro mi pare che lei però abbia espresso anche in questi giorni un po' di preoccupazione del rischio di allentare un po' e di abbassare la guardia. Adesso come vivete a Codogno rispetto alle misure molto drastiche e restrittive che c'erano all'inizio, proprio da zona rossa, sì, adesso? Sì. Sicuramente quelli che sono i comportamenti dei cittadini posso garantire che stanno andando avanti da 5 settimane con quelli che sono stati comunque una metabolizzazione, una razionalizzazione di quello che era l'impegno e la responsabilità dei cittadini nei primi giorni della zona rossa, dove il divieto era pressoché totale e le chiusure erano pressoché totali. E si è continuato, perché sicuramente il territorio l'8 di marzo si è svegliato un pochettino anche con una sana paura, ecco, di vedersi vanificati tutti i sacrifici fatti nei 15 giorni precedenti, viste le aperture, comunque determinate alleggerimenti di quelle che erano le situazioni di isolamento che stavano vivendo le nostre comunità. Adesso come state come comunità, Sindaco Passerini? Si resiste. E sicuramente veramente la responsabilità e la dignità con la quale le nostre comunità stanno continuando a portare avanti questa battaglia, perché ha detto una cosa sacrosanta: non bisogna abbassare la guardia, perché non è un qualcosa che ci si può uscire da soli, ma dobbiamo uscire tutto il paese, tutto il territorio deve uscirne insieme nel miglior modo possibile, e questo spero che sia una condivisione di quelle che sono le responsabilità che abbiamo tutti in questo momento. Prima lo capiamo tutti, prima vinciamo questa guerra. Giustamente, Sindaco Passerini, lei è stato saggio dall'inizio, forte, quindi tenete duro. Un abbraccio alla comunità di Codogno, che è stato un po' il nostro faro, e appunto manteniamo tutti il senso della meta. Grazie, Sindaco Passerini. Grazie mille, grazie a voi. Grazie. Presto. Di abilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi di nuovo a voi, ratta come la folgore, Roberta Giordano, sempre insieme. Scrive Riccardo tra la pagina Facebook di Effetto Notte, vi ricordo il 349-238-6666, che è il numero per gli sms, e anche se ancora qualcuno, soprattutto i whatsapp, e ancora se qualcuno usa gli sms. Riccardo scrive: buonasera Roberta, grazie degli aggiornamenti, soprattutto per la compagnia che ci fai ogni sera. Città deserta dall'aspetto spettrale, tutti rinchiusi in casa, saluti da Madrid, scrive Riccardo. Aveva scritto probabilmente anche nei giorni scorsi, ricordo Riccardo, da Madrid, una città particolarmente colpita, piegata in questo momento, come un po' tutta la Spagna, dal coronavirus. Abbiamo visto scene terribili, abbiamo avuto anche più volte editorialista del Paese, Maria Rodriga, che ancora tornerà qui a Effetto Notte. Quindi un abbraccio grandissimo a Riccardo, a tutti quelli che scrivono anche da altre parti del mondo, italiani, tutti quelli che vogliono scrivere, anche stranieri, insomma in genere italiani che si aggiornano anche ascoltando Effetto Notte su quello che succede nel nostro paese. Mi raccomando Riccardo, anche lì tenete duro, rispettate appunto le regole, dice Riccardo, tutti rinchiusi in casa, bisogna farcela. E a proposito di Europa, adesso Riccardo ci faceva citare la Spagna, ma parliamo di Gran Bretagna. I've developed mild symptoms of the coronavirus, that's to say a temperature and a persistent cough. I've taken a test that has come out positive. Questo è Boris Johnson, primo ministro britannico, avete sentito, che dice: ho avvertito i sintomi di febbre, di una tosse persistente, ho fatto il test e sono risultato positivo al Covid-19, al coronavirus. Ci colleghiamo allora con Londra, con la nostra cara Giorgia Scaturro. Cara Giorgia. Buonasera Roberta e agli ascoltatori. Come stai Giorgia? Sto bene, grazie. Tiriamo avanti, anche se ovviamente siamo un po' a queste notizie. Prima Carlo, poi il nostro primo ministro, insomma, ce la sentiamo piuttosto vicino questo coronavirus. Certo, ricordavi Carlo, il principe d'Inghilterra, e però anche Boris Johnson, che fino a pochi giorni fa, un ascoltatore prima diceva no, non è vero che Johnson ha negato l'emergenza, l'ha negata fino a pochi giorni fa, dicendo addirittura che voleva l'immunità di gregge, che voleva che si ammalassero tutti in modo poi da essere immuni, che diceva a tutti: guardate che ogni famiglia, sappiate, lo perderà almeno un componente, insomma. Poi ha fatto una marcia indietro, e anche lì piano piano, Giorgia, state prendendo delle misure più restrittive? Esattamente, sì, è stato fortemente criticato per averla presa un po' sotto gamba questo coronavirus, avendo semplicemente avvisato di stare lontani senza poi prendere delle misure drastiche come sono state prese in Italia e in altri paesi europei. Finalmente, sotto la pressione e soprattutto sotto l'incremento in accelerata del numero dei casi, c'è stato un nuovo boom di contagi, no? Di contagi e anche di morti. Esattamente. Sì, oggi abbiamo toccato il picco, siamo a 759 decessi, 181 nuovi morti oggi, ieri erano 115, quindi stiamo già salendo, siamo a qualcosa tipo 15.000 casi confermati, ma si parla di un raddoppio ogni 3-4 giorni, quindi ci aspettiamo il peggio in questo momento. Si stanno cercando letti, Londra, che è un po' l'epicentro, abbiamo solo 3.000 letti disponibili in questo momento, quindi c'è un po' la corsa a pararsi, però ecco, non aiuta il fatto che il primo ministro in un primo momento avesse un po' rallentato il panico, però ecco, non aveva preso misure consistenti come è stato costretto poi a prendere lunedì scorso con la chiusura in effetti della città. Ma le metropolitane com'erano in questi giorni, Giorgia, visto che fino a pochi giorni fa vedevamo le immagini della metropolitana a Londra pienissima, adesso? Le metropolitane sono la gente continua ad andare in metropolitana, però una cosa che è stata capita è che erano state sospese molte corse in metropolitana, e questo vuol dire che su una carrozza ci sono più persone, perché ovviamente per prendere quel treno, se ci sono meno treni in circolazione, tutti si accalcano per prendere quello. Quindi questo è stato capito. E quindi ci sono un pochino meno, le persone stanno capendo un po' di più, anche perché il modello italiano sta veramente insegnando. Nel giro di un giorno si è vista la differenza anche nei negozi, si tengono le distanze di sicurezza, ci sono messaggi, ci sono cartelli ovunque, cosa che prima non c'era, e quindi questo è un notevole passo avanti. Come è stato ribadito oggi, il virus non discrimina nessuno, siamo tutti a rischio, ha detto oggi Michael Gove, che è il ministro di gabinetto, e finalmente stiamo capendo che davvero che il nostro primo ministro è potuto contagiarsi, e quindi la cosa va veramente a questo punto presa estremamente in modo estremamente serio. Senti, Regina Elisabetta e il consorte Filippo stanno bene, anche se Principe Carlo è risultato contagiato, no? Sì, ovviamente il primo pensiero va alla regina e quindi posso confermare su nota di Downing Street che la regina ha visto il primo ministro l'11 marzo scorso, e Buckingham Palace fa sapere che la regina ha visto il figlio, Principe Carlo, 2 settimane fa. Quindi la regina in questo momento è a Windsor, isolata, in un'altra stanza rispetto al duca di Edimburgo, che ha 99 anni. Mamma mia. Insomma, è fra i soggetti grandi, vulnerabili. Carlo è in Scozia, no. Il primo ministro è all'11 di Downing Street, separato anche dalla fidanzata, incinta di 6 mesi, che invece si sta autoisolando nella loro villa a sud di Londra. Quindi questo è quello che si può fare in questo momento, isolarsi. Mi raccomando anche tu, Giorgia Scaturro, mi raccomando, un abbraccio. E anche a voi presto. Tutti, grazie. Siamo a casa. Ciao Giorgia, a casa. Un abbraccio a tutti. Ciao. Vi dicevo poco fa di questa notizia che è arrivata del presidente americano Trump, che ha firmato questo piano da 2.000 miliardi per affrontare l'impatto economico negli Stati Uniti. Allora ci colleghiamo con il nostro Riccardo Barlam a New York. Caro Riccardo. Sì, ciao Roberta, buonasera a tutti gli ascoltatori. Eccoci. Abbiamo appena firmato questo pacchetto di 2,2 mila miliardi di dollari, e alcuni amici americani mi hanno chiesto: ma tu non sei americano oggi, non sei contento che ti arrivano i soldi? No, a me non arrivano i soldi, perché ogni americano arriverà un assegno da 1.000, se non sbaglio, $300, $500 a ogni bambino. Insomma, sembra un aiuto, ma anche un po' una mossa elettorale. E tu che invece sei italiano, quindi non riceverai nulla, Riccardo? No, però ho tutti i danni di stare qui a New York, dove è il centro della pandemia. Avrete saputo ovviamente, certo, che gli Stati Uniti sono primi in classifica, in questa terribile classifica, hanno superato la Cina e l'Italia. Adesso i casi di coronavirus sono oltre 100.000, a New York siamo la città dove c'è più densità abitativa, ci sono 50.000 casi, 45.000 in realtà. Ieri vedevo che Andrew Cuomo, il governatore dello stato di New York, diceva che c'è il rischio che almeno metà della popolazione di New York si ammali. Sì, parlano addirittura di oltre 4 milioni e mezzo di persone nei prossimi settimane, mesi, insomma è uno scenario che fa paura. Io ho appena finito di parlare con il console italiano Francesco Genualdi, che mi ha detto che mi ha confermato appunto che c'è questo ritardo nel capire l'entità del problema, però nel ritardo si stanno muovendo bene, perché adesso per esempio i tri-state come si chiamano, cioè lo stato di New York, il Connecticut e il New Jersey, che sono i tre stati che stanno attorno a New York, da lunedì cominceranno a coordinarsi, quindi a scambiarsi, a parte i posti letto, quindi a offrire assistenza ai posti letto che a New York non sono sufficienti. Ci sono 8 ospedali temporanei che stanno cercando di mettere in piedi in queste ore in diverse parti dello Stato. Insomma, la situazione non è facile. Senti Riccardo, tu appunto che vivi a New York e parli da New York, abituati tutti a pensare la grande mela brulicante di persone, di vita, che non dorme mai, eccetera, eccetera, com'è in questo momento? Ma guarda, io sono stato 2 giorni fa, ho fatto proprio un giro da giornalista, ho preso la mia biciclettina pieghevole, la mascherina e i guanti e mi sono girato tutta Manhattan vedendo com'è questa città per cercare di capire, e devo dire è abbastanza impressionante. Ci sono diverse decine di migliaia di ristoranti, bar e negozi chiusi, il traffico infernale tutti i giorni non c'è, la metropolitana sono scesi di oltre il 90% gli utenti, la situazione è drammatica e il rischio della nuova grande depressione qui è più evidente, perché la gente qui lavora con le paghe settimanali, quindi non c'è il welfare che c'è in Europa e quindi sono a un passo dal diventare homeless. Basta pochissimo. E, diciamo, la cosa che mi ha colpito anche per dire è che il tocco delle mani è diventato quasi come un colpo di pistola in questa guerra, perché si sta molto attenti al distanziamento sociale, non so, i controllori non ti prendono più il biglietto, i gesti anche più stupidi come premere il bottone di ascensore sono diventati dei gesti potenzialmente pericolosi, quindi è una situazione veramente così, difficile, in Italia lo sapete com'è, in sì. Italia lo sapete com'è, è molto contrastante. E Cuomo, devo dire, il governatore Cuomo è diventato suo malgrado, perché non è mai stato molto amato anche nel suo partito democratico, non è uno dei leader, ma in questo momento è una specie di voce della verità, perché lui continua a accusare Trump, che ha diciamo sottovalutato la portata di questa crisi fino a qualche giorno fa, ricordiamo. Lui parlava di riempire le chiese due settimane e ha detto delle cose veramente anche che fanno, insomma, gli fanno onore in qualche modo, perché tanti governatori cominciano a dire, come ha fatto Boris Johnson, lasciamo indietro la parte più debole della società. Sì, sì. E quindi qualcuno parla dei disabili, qualcuno parla degli anziani. Oggi mi viene in mente, ma Boris Johnson fa parte degli anziani anche lui, perché sì, appunto, non si credesse un giovincello. Vabbè, vediamo, esatto. Insomma, se cominciano un po' a mettere la testa a posto, diciamo così, per dire un eufemismo. Non si può fare questo darwinismo sociale per salvare la borsa, ha detto così proprio ha detto Cuomo. Ma sì. Io salverei mia madre, come tutte le vostre madri, bisogna salvarle. Noi siamo qui in questo momento. Fa giustamente lo statista, Andrew Cuomo. Sì, Andrew Cuomo. Credo senza nessun tipo di intenzione, ma semplicemente naturalmente, spontaneamente e giustamente. Esatto. Grazie Riccardo Barla da New York. Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Ciao, un abbraccio a te. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Chiediamo a Paolo Corazzon di 3B Meteo che tempo vedremo dalla finestra, caro Paolo. Buonasera Roberta. Beh, guarda, ci sarà un miglioramento del tempo durante questo weekend, quindi in realtà sì, le apriamo anche le finestre, magari ci spingiamo fino anche sul balcone, perché tornerà un po' di sole, torneranno temperature primaverili, ce ne siamo comunque belli rintati in casa, comunque ci mancherebbe. Però guarda, ti segnalo che settimana prossima, a partire già da lunedì, nuova ondata di freddo sull'Italia, ci faremo 3-4 giorni da lunedì a giovedì prossimo con temperature ancora invernali, rischio addirittura della neve fino a bassa quota stavolta al nord, quindi da lunedì torneremo sotto le copertine sul divano, ce ne siamo buoni buoni a casa ad aspettare che passi, e ci vorrà appunto qualche giorno prima di riparlare di primavera, ma in fin dei conti a mio parere meglio così in questo periodo, io la vedo così, ecco. Eh sì, la vediamo in tanti così purtroppo. Grazie Paolo Corazzon di Trevi Meteo, un abbraccio a te, buon tempo, buon a tempo te comunque a tutti. Sia ciao. Grazie. Caro Paolo. Due.